Va bene, incominciamo nel ritardo d'obbligo. Per la terza volta abbiamo il piacere di avere con noi Crocco e Grillo, perché io continuo a chiamarli così. Giusto, giusto, giusto. La prima volta fu durante l'allestimento della mostra BTP Autonomy e Punk per parlare a partire da Cesarano. Ai tempi esisteva ancora il vostro collettivo universitario, poi ci si vide spesso in valle. Poi la seconda volta fu più di recente per parlare della fine del mondo, e oggi per questo nuovo libro di cui avete curato la traduzione. Abbiamo anche l'editore, che non abbiamo avuto finora il piacere di conoscere, però faremo delle cose insieme probabilmente. Per cui direi di incominciare subito. Ieri c'è stata ad Anarres una puntata precedente che non corrisponderà a quella odierna, però magari qualcosina sulla discussione che c'è stata ieri potreste, dopo la presentazione del libro, dirla. Incominciate, vediamo di lasciare un adeguato spazio per domande e discussione. Andate. Allora, buonasera a tutti e a tutte. Perdonate il ritardo, è stata colpa mia, ma ci ho messo un po' perché sono arrivato da Sesto Rondò, che è un po', da quello che ho capito adesso, un po' fuori mano. Allora, proveremo oggi, io farò una breve introduzione del testo, di come pensano le foreste, mentre Ale proverà invece a delineare un po' di linee di fuga che abbiamo individuato, insomma, nel lavoro di traduzione del testo e in un lavoro che stiamo portando avanti ormai da più di... in realtà la nostra amicizia dura, come diceva Robertino, da più di 20 anni, però il nostro lavoro di traduzione, che va avanti dal 2017, da quando abbiamo tradotto il libro di Edoardo Viveros de Castro e Deborah Danoschi, Esiste un mondo a venire, poi il libro di Davy Kopenawa e Bruce Albert, La caduta del cielo. Adesso siamo arrivati a quest'altro testo fondamentale, quindi cercheremo di... Ale cercherà di un po' di dare qualche suggestione per il possibile utilizzo pratico di questo testo e anche degli altri. Allora, Come pensano le foreste esce in lingua inglese nel 2013 e raccoglie appunto il lavoro di etnografico di Eduardo Cohn con il popolo Runa. Il popolo Runa vive in Ecuador, nella foresta amazzonica. E al contrario degli indigeni Yanomami, che erano, diciamo, i protagonisti della caduta del cielo attraverso le parole del loro portavoce Davy Kopenawa, i Runa non sono degli indigeni incontattati, ovvero non vivono nel cuore della foresta, ma sono, per seguire l'indicazione di Edoardo Viveros de Castro, sono i classici indigeni con gli jeans, nel senso che hanno una vita a metà tra la foresta e la città. Traggono tutta la loro sussistenza dalla foresta, e tutto quello che non riescono a prendere dalla foresta invece viene preso attraverso delle relazioni commerciali con centri più grandi. E hanno una cultura molto complessa, stratificata, attraverso anche un passato coloniale molto complesso. Però la cosa più interessante e tesi centrale di questo libro è, vi cito subito un passaggio centrale, ciò che distingue la vita dal mondo fisico inanimato è il fatto che le forme di vita hanno, in un modo o nell'altro, una rappresentazione del mondo e che queste rappresentazioni sono intrinseche al loro essere. Ciò che condividiamo con le creature viventi non umani, quindi, non è la corporeità, ma il fatto che viviamo tutti con e attraverso i segni. Allora, il libro... diciamo, questa è una parte centrale. Le foreste pensano perché le foreste sono... la foresta è considerata un sé. Ci sono vari punti d'attacco, proverò da questo. Allora, Edoardo si basa sul lavoro di due... oltre ovviamente alla sua analisi etnografica, si basa su due autori. Uno è Terence Deacon, che è un biologo, che ha scritto questo libro interessantissimo che si chiama Natura incompleta, dove lui sviluppa un'analisi che appunto ricerca l'origine della vita, come è nata la vita, e il filosofo americano Peirce, che è il padre della semiotica, in un certo senso si può dire così. Allora, la teoria di Deacon scusate che sono appena arrivato, sto prendendo un attimo il ritmo. La vita, quando si è formata, così la vita come la conosciamo, quindi in grado di riprodursi, autoripararsi e in un certo senso evolvere, ha sviluppato una forma embrionale di rappresentazione del mondo, ovvero è riuscita a leggere dei segni. Questi segni sono ovviamente i segni primari, quelli che Peirce chiama le icone. In realtà poi la vita si è sviluppata e ha cominciato a trattare un altro tipo di segni, che sono gli indici. Lo sviluppo della vita poi ha portato gli esseri umani a sviluppare un altro tipo di segni, che sono appunto i simboli. I simboli sono quelli che utilizziamo nel linguaggio. I simboli hanno una referenza interna, ovvero ogni simbolo rimanda a un altro simbolo, e voi adesso potete capire quello che dico io proprio perché le parole rimandano a un sistema chiuso di referenza che è appunto la lingua italiana. Queste forme embrionali di sé quindi hanno una rappresentazione del mondo, interpretano il mondo, perché alla fine di ogni processo semiotico, alla fine di ogni lettura di segni, c'è appunto un interpretante, e questo interpretante può essere umano, animale o vegetale. E la cosa che abbiamo fatto fino adesso è stato appunto appiattire la rappresentazione sul linguaggio, mentre invece la rappresentazione che abbiamo noi umani attraverso il linguaggio è solo un tipo specifico di rappresentazione. Ne esistono altre che appunto sono legate ad altri tipi di segni, che sono appunto le icone e gli indici. Proverò a spiegarvi brevemente cosa sono le icone e gli indici e un po' come funzionano nella foresta. Allora, nel linguaggio della foresta esistono moltissime parole che sono, diciamo, delle quasi parole, dice Cohn. Vivono al limite del linguaggio simbolico, ma non rientrano totalmente nel linguaggio simbolico. Il primo esempio che fa Edoardo è la parola Zupu. C'è un runa che, mentre raccontava che stava cacciando un pecari nella foresta, dice: ho sparato al pecari. Dopodiché il pecari è un maiale selvatico che vive nella foresta amazzonica, è scappato e ha fatto Zupu. Zupu è il rumore che fa un pecari quando impatta una superficie d'acqua e poi affonda. Lo zu è l'impatto e il pu è l'affondamento. E esistono tanti tipi di parole, soprattutto quando si parla di foresta, i runa usano questi tipi di parole. E da un punto di vista, anche dopo avervi spiegato cos'è Zupu, un po' penso che sentite questa parola dentro di voi, no? Un po' come un po' anche come il nostro splash. È chiaro che è più legato alla lingua inglese, quindi magari la sonorità a livello italiano non ci arriva, ma anche lo splash è questo rumore di è una parola che dà questa idea di acqua che si apre. E c'è un altro esempio in cui Ilario e Lucio, che sono due runa con cui ha interagito Edoardo, sono a caccia di scimmie lanose. Una scimmia lanosa si nasconde su un albero. Per farla scendere, per farla uscire da questo nascondiglio, Ilario dice a Lucio: gli farò fare tatà e puo. Tatà è il rumore del macete sul tronco di albero, e puo è il rumore dell'albero che cade, della palma che cade nella foresta colpendo tutte le fronde. Quindi è il pu o così. Lo so che può sembrare colorito, però stiamo arrivando a un punto centrale. In realtà è un modo che hanno i runa per comunicare tra di loro in maniera abbastanza veloce, e significa che Ilario sta andando a tagliare una palma in modo da farla cadere e spaventare la scimmia lanosa. Quindi tatà e puo come zupu sono diciamo delle icone, perché giocano su una sorta di confusione, nel senso, noi le icone le riconosciamo, le leggiamo perché non vediamo, perché di fronte a loro abbiamo una sorta di confusione. È un po' come l'esempio di quando andiamo in bagno e vediamo la figura della donna o dell'uomo e decidiamo in quale bagno entrare, no? Non vediamo le differenze tra quella figura e l'uomo vero o la donna vera, però la prendiamo come la figura dell'uomo o della donna. Però è interessante che la catena semiotica, che come vi dicevo prima ha sempre alla fine un interpretante, in questo caso l'interpretante non è umano, perché la caduta della palma viene letta dalla scimmia lanosa come un indice, ovvero come un tipo di segno che ha a che fare con i fatti. La scimmia, leggendo la caduta della palma come icona, sarà diciamo, spinta ad agire, a fare qualcosa. Com'è possibile questo? Perché associerà a livello iconico dei precedenti rumori che ha già sentito, che associerà a delle icone, sempre a livello iconico, a dei segnali di pericolo. E quindi leggerà la caduta della palma come, oddio, che, cioè, oddio magari non lo dirà, dirà devo fare qualcosa. È un giaguaro, un fulmine, comunque metterà in campo questo processo semiotico in testa, iconico, leggerà la caduta della palma in sé come un indice e farà qualcosa. E in quel momento Ilario e Lucio sono in grado di sparare alla scimmia lanosa, cacciarla e avere la cena. E, quindi il linguaggio semiotico, la semiosi, attraversa tutta la foresta e attraverso la semiosi per i runa riescono a interagire con la foresta e con tutti gli esistenti che abitano la foresta. È interessante questo perché, come vi dicevo in precedenza, la capacità di rappresentare il mondo e anche la qualità di avere un sé non è una caratteristica specifica dell'essere umano, ma in realtà è un qualcosa di innestato su qualcosa che condividiamo con tutti gli altri esistenti. Il linguaggio umano non è un qualcosa di o non è esclusivamente qualcosa di eccezionale che caratterizza la nostra eccezionalità, ma è stato possibile costruire il linguaggio simbolico proprio perché si innesta su un altro tipo di segni, che appunto sono le icone e gli indici. Vi posso fare un altro esempio un po' più banale. La mattina vi svegliate, aprite comunque la finestra e vedete che c'è brutto tempo o ci sono le nuvole. A questo punto associerete nella vostra testa a livello iconico quelle nuvole con altre nuvole che avete visto. Vi ricorderete sempre a livello iconico il freddo che avete preso quando non avete portato l'ombrello e a quel punto deciderete, in base a questa lettura iconica, leggerete il brutto tempo come un indice che vi spingerà appunto a quel giorno a decidere di prendere un ombrello o un cappotto o addirittura a non prenderlo. Quindi c'è una parte del linguaggio umano, che cioè anche della seità umana, che si sviluppa su questi tipi di segni. Questo che vuol dire? Che quindi non siamo gli unici sé, non siamo gli unici che pensano e che quindi è possibile una comunicazione reale e concreta all'interno della foresta. E questo è ciò che permette a Iruna di avere una descrizione della realtà molto dettagliata, che è ciò che gli necessita per cacciare e sopravvivere nella foresta, e in più questa è un'affermazione di carattere ontologico che da un punto di vista cambia tutta la nostra percezione dell'umano e di che cosa è l'umano. Altra caratteristica dei sé è che i sé possono unirsi insieme, diventare un sé più grande. Da un punto di vista, quando si condivide una reazione condivisa al mondo, si diventa un sé più grande. Anche noi, da un punto di vista in questo momento, visto che siamo tutti voi concentrati a sentire me, io concentrato nel cercare di farmi capire bene, stiamo condividendo una sorta di reazione al mondo e quindi possiamo dire che in questo caso siamo un sé più grande. Ecco perché le foreste pensano, perché sono fatte di innumerevoli sé che combinati insieme formano questo sé più grande che è appunto la foresta pensante. E, ho dimenticato qualcosa? O... Quindi, da un punto di vista, come volevo dirvi prima, questo sia ha una ricaduta molto importante su quello che di solito noi chiamiamo ontologia, che anche se è una parola piuttosto complessa, è una parola abbastanza semplice poi in realtà da spiegare, nel senso vero di come conosciamo il mondo. E in più ha una ricaduta su quello che abbiamo sempre creduto che fosse l'animismo, no? L'animismo a questo punto non è una visione ingenua del mondo, una visione infantile, ma in realtà è una visione molto più dettagliata del mondo. E questa gnoseologia in realtà ci permette di fare molte più cose. Per esempio ci permette, come dice Donna Haraway, di essere molto più mondani, cioè di avere una presenza al mondo e di avere un radicamento alla terra che per esempio la gnoseologia classica, quella di soggetto-oggetto, non riesce a fare. Probabilmente se vogliamo andare sulla Luna, la gnoseologia o l'ontologia, quella guidata dal soggetto-oggetto, è la più utile. Però se vogliamo riguadagnare invece un rapporto di composizione con la Terra, forse quest'altro tipo di ontologia è molto più utile ed è decisamente da indagare. E lascio la palla ad Ale, che proverà proprio a sviluppare quest'altra parte della presentazione. E in realtà ho provato a semplificare un testo che è molto complesso e che ha anche altri stati di altre stratificazioni, quindi poi nel dibattito, se c'è qualcosa che non è stato chiaro, possiamo tornare, ci sono altri esempi e ci sono altri aspetti della cultura, del modo di vita runa interessanti, e possiamo per chi ha già letto il testo o chi è ancora più curioso, possiamo tornarci. Allora, vabbè, mi accodo anch'io ai ringraziamenti, eccetera, eccetera. E ovviamente noi quando veniamo qui a parlare siamo sempre molto contenti, quindi dai. Allora, io appunto, come diceva Ale, proverò un po' a cercare di spiegare qual è stato anche il nostro particolare interesse da affrontare un testo del genere, che come giustamente ha detto è un testo abbastanza complesso, che ha vari piani di lettura, vari livelli, e soprattutto proverò a spiegare che cosa, perché il nostro modo di conoscere le cose, quindi la nostra gnoseologia, per usare un altro parolone, cambia tanto il nostro modo di fare politica, cioè il nostro modo di intendere la politica, di intendere che cos'è la vita in comune, e soprattutto magari a spiegare perché secondo noi testi del genere o comunque lavori del genere abbiano ci consentono di respirare un po' più di possibile rispetto, diciamo, alla chiusura che ci troviamo ad affrontare adesso, visto anche insomma le ultime vicende che abbiamo attraversato tutti e tutte con la pandemia, eccetera. Parto anch'io da una tesi centrale di come pensano le foreste, senza parlare di semiotica, di segni, ma diciamo rimanendo su un piano un po' più superficiale. Una delle tesi centrali di come pensano le foreste è che il pensiero, no, come diceva lui, si estende oltre l'umano, cioè pensare non è una prerogativa esclusiva degli esseri umani, no? Ma è legato alla vita. Cioè, la tesi del libro è: tutto ciò che vive pensa, cioè ha una rappresentazione del mondo attraverso la quale si predispone a conoscerlo. No? Tesi centrale, fondamentale. Lo scopo cruciale dell'analisi di Kohn è dimostrare la concretezza di questa affermazione, che non va intesa in senso metaforico, va intesa in senso proprio, in senso materiale. Le foreste pensano, dice Eduardo Kohn, è una proposizione generale sul mondo, no? Che cambia ovviamente il nostro modo di conoscerlo, e quindi di conseguenza cambia anche il nostro modo di stare al mondo. Quindi questa proposizione generale, così un po' strana, ha delle implicazioni fortemente politiche, perché, ripeto, cambia il nostro modo di stare al mondo. No? Vi leggo un pezzetto del libro di Kohn, e nell'introduzione dice proprio molto candidamente questa cosa: quello che sto cercando di fare riguarda la politica. No? Una politica che non si sviluppa dall'opposizione ai nostri sistemi attuali o dalla loro critica, ma si sviluppa a partire dall'analisi di un altro modo di essere, che in questo caso coinvolge altri esseri viventi. Credo che questo sia, diciamo, un paragrafetto molto importante. La politica, chiaramente, per come noi siamo abituati a concepirla, è un affare esclusivamente umano, cioè riguarda solo noi umani, no? Esclude in qualche modo l'alterità. Gli altri viventi, le piante, gli animali, sono una risorsa da sfruttare, un intralcio, o nella migliore delle ipotesi un ornamento da contemplare, no? Quando andiamo a fare i nostri safari o le nostre gite in foresta. Perché? Perché la nostra politica mira a governare e a gestire tutto il vivente, no? Anche l'ecologia, che oggi appunto si presenta come la critica, una delle critiche più strutturate al capitalismo, comunque all'economia neoliberale, è semplicemente un'altra modalità di questa gestione, no? Comunque non riesce a pensare in maniera con una concatenazione armonica tutto il resto del vivente, no? Quindi la natura per un attivista ecologico, e qui ovviamente come dire, sintetizzo, però poi se vogliamo ci possiamo tornare, è comunque qualcosa da difendere, no? È qualcosa da difendere, insomma, a cui avere determinate attenzioni, ma non viene mai pensata come qualcosa che fa parte di noi, no? Quindi entrambi questi approcci, tutti questi approcci pensano, continuano a pensare l'essere umano separato dal vivente. Questa è un'altra parte importante. La separazione dal vivente, sempre per riprendere un'espressione di Edoardo Cohn, non ci consente di avere una rappresentazione dettagliata del mondo, no? Non ci consente cioè di raccontare il mondo, cioè noi non riusciamo più a dare conto del mondo in cui viviamo, no? Mette in scena un mondo che è povero o addirittura privo di relazioni, no? È un mondo visto come dicono gli esperti, un mondo visto come meccanismo scomponibile, no? E non, come sostiene Cohn, appunto, che utilizza questa bella espressione, come un tutto aperto, no? È questo quello che, secondo sempre l'autore, ci ha condotto a quello che noi consideriamo, abbiamo insomma nelle nostre teorie occidentali, il disincanto moderno, no? Dice Cohn, il disincanto, grazie a questo rapporto non mai compositivo, è un'ovvia conseguenza, no? Il disincanto moderno è ciò che guida in un certo senso l'agire politico nel mondo occidentale, dove appunto la relazione viene pensata solo all'interno di rapporti di appropriazione, accumulazione e sfruttamento. Questa modalità della relazione è stata definita in maniera molto precisa tecnica moderna, no? Quindi la tecnica moderna, che, e questa è importante, attenzione, non è l'unica, è dominante sul pianeta ma non è l'unica, ce ne sono diverse, è ciò che in qualche modo continua a perpetrare questa separazione che l'essere umano ha rispetto a tutto il vivente. Quindi quello che ci dice Cohn, in fondo, è che noi abbiamo bisogno, per diciamo, affrontare i problemi che sono quelli più attuali, cioè quello del disastro che l'essere umano ha compiuto sulla Terra, di una politica oltreumana, chiamata anche cosmopolitica, cioè che una politica che prenda in considerazione il punto di vista degli altri viventi o di tutti i viventi. E questo ovviamente cambierebbe in modo radicale anche il nostro modo, anche il nostro punto di vista sul mondo, anche il punto di vista umano, aprendoci a quella che nel nostro, diciamo, percorso di ricerca stiamo provando faticosamente a definire la dimensione etica. Quindi solo se riusciamo a praticare la relazione aprendoci all'oltreumano, quindi aprendoci agli altri viventi, possiamo tornare in un certo senso a vivere in un mondo aperto, cioè esposto a infiniti incontri e a infinite relazioni, no? Il mondo, diciamo, da questo punto di vista, che cos'è? È qualcosa che è costituito da un'infinità di relazioni, cioè da relazioni tra singolarità. Il modo in cui tali singolarità si relazionano apre alla conoscenza del mondo. La ricerca del giusto, quindi, che è, diciamo, la questione etica per eccellenza, diventa una ricerca del giusto relazionarsi, cioè ciò che è giusto, per esempio, per noi umani potrebbe non essere giusto per una miriade di altri esseri, no? Dunque è necessario cosa? Vedere cosa è giusto all'interno della contingenza della relazione, no? Non c'è il soggetto unico, l'essere umano, che decide cosa è giusto, ma c'è del giusto che si trova all'interno della relazione e che deve lasciato essere libero di emergere. Il concetto di emergenza è un altro concetto centrale all'interno del libro, no? È questa proprio ricerca del giusto, intesa in questo senso, che ci consente di accedere a quella che appunto stiamo definendo una dimensione etica, no? Che non sarà più limitata appunto alla politica, ma sarà in grado di aprirsi a quella che stiamo definendo cosmopolitica. Ovviamente questa concezione dell'etica incontra, diciamo, non pochi problemi, no? Ciò che noi intendiamo per etica di solito oscilla tra due poli, che sono i poli attraverso il quale questo pensiero nella storia del pensiero si è evoluto e si è sviluppato. L'etica, diciamo, per definizione, proprio nella sua definizione è abbastanza ambivalente, perché da una parte tende a fissare dei principi validi per sempre, quindi fuori dallo spazio e il tempo. Questo è giusto, quello è sbagliato, no? Che diciamo quello che noi tenderemo a definire un sistema morale. Dall'altra si tende invece a rinchiuderla nella contingenza storica, no? Quindi dentro un tempo storico e uno spazio definito. Ciò che è giusto qui va osservato, no? Quello che poi conduce a quello che noi comunemente chiamiamo ordinamento giuridico. Quindi da una parte abbiamo una serie di principi morali, dall'altra una serie di norme da rispettare. Ovviamente quello che stiamo provando a dire noi è che nella nostra accezione l'etica non coincide né con la morale, come spesso avviene per esempio per l'attivista o il militante, no? Che ha un'idea su come le cose vadano fatte, ha un'idea su cosa è giusto e cerca di applicarla alla realtà, e ovviamente non può coincidere con la legge, come avviene per il cittadino. Il cittadino, diciamo, tranquillo, dice se qualcosa è vietato dalla legge non è eticamente corretto. No? Il problema chiaramente è sempre lo stesso, cioè chi è che decide e come si stabilisce che qualcosa possa o non possa essere giusto. No? Non è, l'etica, pensiamo noi, non è una questione che può essere risolta tra esseri umani, e questo è il nostro limite, no? Ma va pensata, lo ripeto ancora una volta, all'interno delle relazioni. E le relazioni, come insomma, si provava a spiegare in questo modo un po' complicato attraverso la semiotica, non sono qualcosa esclusiva degli esseri umani. Quindi un approccio etico deve essere necessariamente oltreumano, cioè deve stare dentro la relazione per come questa si configura di volta in volta nel mondo. Si potrebbe dire che appunto questo approccio sia relativista o comunque troppo o comunque opportunista addirittura, in quanto non ci consente di fissare dei principi generali su cosa sia giusto. Ma secondo noi non è così, perché, e questa è un'altra parte un po' spinosa, però molto interessante del libro, dice la relazione è la relazione stessa, è il manifestarsi generale di qualcosa, no? Questo manifestarsi generale produce degli effetti sul mondo, e essere aperti a questo manifestarsi generale apre appunto alla possibilità di un pensiero etico e in questo senso appunto cosmopolitico, no? Quindi il punto è che esce dal libro è che noi non abbiamo bisogno di nuovi sistemi politici per affrontare, diciamo, le sfide dell'attualità, ma appunto di un rinnovato approccio relazionale, che quindi è gnoseologico e conoscitivo, no? Che è appunto oltreumano e è prospettivista, no? Qui cito ancora Kohn, dice il posizionamento prospettivista ci consente di indugiare in quello spazio dove, come uno sciamano, si può essere simultaneamente coscienti di diversi punti di vista e del modo in cui questi siano collegati da qualcosa di più grande che li comprende. Diventa forse così più comprensibile l'intuizione di Eduardo Viveros de Castro quando dice lo sciamanesimo è la continuazione della politica con gli stessi mezzi, no? Appunto una politica che non sarà più una diplomazia esclusiva tra esseri umani, ma una diplomazia cosmica, no? Ovviamente anche qui bisogna mettere dei paletti e fare un po' attenzione a tante definizioni, perché è facile confondersi. Questa diplomazia non si limita a includere gli altri esseri viventi nel discorso umano, ma proprio riconfigura interamente il discorso umano prendendo o provando a prendere in considerazione i punti di vista che non sono per forza umani, no? Consentendoci proprio di occupare quello spazio mediano, quello spazio cosmopolitico, in cui si riesce ad essere simultaneamente coscienti di diversi punti di vista e in cui soprattutto si è in grado di raccontarli. Ho iniziato a parlare dicendo che appunto uno dei problemi principali che ci pone l'antropocene è che noi non siamo più in grado di raccontare il mondo, cioè non siamo in grado di darne conto, okay? Questo tipo di racconto, appunto, che è un racconto sciamanico, chiamiamolo così, è simile secondo noi al lavoro del traduttore, no? E qui un po' di autobiografia, che fa il traduttore? Fa parlare una lingua attraverso un'altra, se lavora bene ovviamente. No? Fa parlare un'altra lingua attraverso la propria, no? Tradurre, anche nell'esperienza lunga ormai che ne abbiamo avuto insieme, non è semplicemente entrare in contatto con un'altra lingua, no? Significa soprattutto rielaborare la propria lingua a partire da un'altra, cioè saper raccontare il punto di vista dell'altro senza mai diventare quell'altro, no? È una cosa molto particolare, ovviamente la traduzione della caduta del cielo che ha implicato diciamo, vari livelli anche linguistici, è stato in questo senso, anche l'incontro con Davide Copenau è stato in questo senso molto forte per noi. La cosmopolitica dunque, per tornare a questo tema, è pensabile e comprensibile proprio solo in questo spazio mediano, no? Questo spazio relazionale in cui emerge la prospettiva dell'altro in quanto parte di un tutto più ampio. Quindi la critica che rivolgiamo principalmente al discorso politico è proprio quella di non riuscire mai a pensare questo tutto più ampio, cioè questa totalità aperta che è il mondo. No? Ovviamente la cosmopolitica non deve assolutamente essere confusa con un'arena politica più ampia, no? Che appunto, ripeto, che semplicemente include gli altri viventi, no? Restando però sempre inconsapevole di questa totalità aperta in cui ogni vivente si mette in gioco. Per questo la cosmopolitica, per come la intendiamo noi, non ha assolutamente a che fare col cosmopolitismo moderno, che ha una lunga tradizione, che parte da Kant, che è semplicemente è una politica, con tutte le critiche che ne abbiamo fatto, extranazionale, no? Ma ha a che fare direttamente con la cosmologia. No? Che cos'è la cosmologia? È proprio un racconto che implica sempre una totalità. Qualche parola sulla cosmologia. La cosmologia è un luogo molto problematico da pensare, perché in essa troviamo sempre qualcosa che ha a che fare con l'inizio, o con gli inizi, forse meglio dire. No? Si può dire che la cosmologia sia un racconto che implica sempre le origini dell'uomo, origini della città. È un racconto che coinvolge la politica, cioè l'arte di governare gli uomini, che coinvolge l'etica, perché coinvolge gli abiti e i comportamenti di umani e non umani. No? La politica, l'etica, tutte queste discipline esistono perché l'umanità è sempre stata in grado di raccontare, cioè si è sempre raccontata in qualche modo, e nel racconto ha fatto delle ipotesi, è stata in grado di fare delle congetture. Altro termine fondamentale del libro di Conte. Quindi la cosmologia è proprio quest'arte del racconto, cioè un racconto che contiene gli altri racconti, è lo sfondo di ogni ragionamento. È una delle condizioni delle possibilità del pensare. È una cosa molto, molto forte questa. In una conversazione che anni fa, quando è venuto qui Davide Copenau in Italia, Davide ci ha detto: quando noi prendiamo la iacoana, che è la sostanza psichedelica che prendono per conversare con gli spiriti, e parliamo appunto con gli sciapiri, che sono il nome dei loro spiriti, significa per noi entrare in contatto con tutto il mondo in generale, no? Espressione molto bella, anche molto forte. O come dice Peirce, un autore molto utilizzato nel libro, dice questa cosa in un certo punto, dice: ogni inferenza comporta una concezione del tutto, cioè ogni logica comporta una filosofia generale dell'universo, no? E in questo senso una cosmologia. Noi non potremmo ragionare, in un certo senso, senza proprio la luce del pensiero cosmologico, cioè senza esprimere qualcosa che riguarda il cosmos, cioè questa totalità problematica che stiamo provando così a frequentare. Ovviamente questa problematicità di che cos'è la cosmologia è anche documentata bene proprio dall'ampio campo semantico in cui la parola cosmos prende forma. Cosmos vuol dire tante cose, ma principalmente vuol dire ordine, disciplina ordinata, decoro, no? Ciò che è decoroso, ciò che è bello, infatti è una radice che poi porta a cosmesi, i cosmetici. No? E il cosmos è dunque ordine, un certo ordine armonico del tutto, no? È un mondo, ordinamento del cielo e della terra, il mondo animato che si muove con un certo ordine, no? Con una certa armonia. No? Dunque, utilizzo un'espressione del filosofo Carlosini che secondo me è molto bella, dice: la cosmologia si mostra dunque come la bellezza e il conveniente decoro di un ordine ben ripartito, celebrato nel racconto. Quindi se la cosmologia ha a che fare con il racconto, la cosmopolitica si presenta come una sorta di racconto, anche in questo senso, di ciò che è giusto, di ciò che è bene, ma soprattutto cosa fa? Apre alla possibilità del racconto. No? L'antropocene, tema da cui noi siamo partiti anche nella nostra ricerca, che è l'evento principale della contemporaneità, l'evento che forse contiene tutti gli altri eventi, no? Che li scatena, forse, è già un racconto anch'esso, no? Ma è un racconto molto particolare. No? Non è un caso, per esempio, che anche uno dei primi problemi dell'antropocene sia stato quello di stabilire l'inizio, cioè come fa ogni racconto, cioè come fa ogni cosmologia. No? Ma per altri versi l'antropocene è anche la fine del racconto, cioè un racconto che chiude la possibilità di ogni racconto perché parla della fine, cioè della nostra fine. Essendo appunto un racconto della fine, lo possiamo vedere come l'ultimo racconto e produce in un certo senso un effetto un po' estraniante, cioè l'impossibilità del raccontare, cioè l'impossibilità di dare conto del mondo. No? Dunque, per terminare, la cosmopolitica rimane ovviamente questo luogo difficile un po' da frequentare, perché qui troviamo coinvolti il racconto delle origini, dunque anche il mito, il racconto etico della ricerca del giusto. No? E inoltre, appunto, come dicevo prima, continuerà a essere necessario smarcarsi da tutte, diciamo, quelle declinazioni del cosmopolitismo che, come dicevo prima, non portano bene diciamo, a quello che vorremmo provare a dire noi. No? Il problema, appunto, è sempre stato quello di formulare un pensiero che porti naturalmente all'inclusione di tutta l'umanità a una dimensione politica condivisa, come appunto nel caso di tutto il filone che parte da Kant. No? Inizialmente il cosmo tende a coincidere con il mondo, cioè è abitato però solo da umani, e via via poi si allarga magari anche a altri esseri viventi, come per esempio nei pensieri più contemporanei come Latour o Stenger, che fanno questo tipo di lavoro, però non colgono secondo noi questo aspetto essenziale che è quello relazionale che abbiamo provato a definire. No, ovviamente quindi ripeto e qui chiudo, non si tratta appunto di cercare di concepire una politica più inclusiva, no? Ma proprio un approccio che proprio ridefinisce il nostro modo di stare al mondo. Il nostro concetto di cosmopolitica non è una visione olistica del mondo, cioè non ci dice questa cosa banale che tutto è relazione, ma è una visione partigiana, molto partigiana, è una visione specifica del mondo, ripeto, una visione su come stare al mondo. Non tutti i mondi sono conciliabili, evidentemente, molti a noi non ci piacciono, non vanno bene. No? È dunque più un posizionamento, no? Come proprio quello dello sciamano che prova a lavorare in questo spazio mediano che è lo spazio relazionale e che appunto secondo noi forse è quello che riesce, forse ci consente di avere delle risposte o comunque quantomeno delle indicazioni per appunto le sfide che pensiamo che già stiamo affrontando. Ovviamente la pandemia ci ha offerto un assist abbastanza forte su questo, ma che pensiamo dovremmo continuare ad affrontare anche nel futuro immediato. Grazie. Vito. Ma si può avere un tè, Robertino? Adesso provvediamo. Un tè? Anziano, un tè. Va bene, ovviamente il microfono è a disposizione di chiunque voglia intervenire o domandare qualche cosa. Incomincio a rompere il ghiaccio io. Sono d'accordo su quanto è stato detto e sono molto preso da questa tensione. Anch'io sono straconvinto che la nuova internazionale di Homo Gemeinwesen, che io ho scommesso con Lele che vedremo nascere, lui invece è convinto di no, dovrà basarsi su una cosmovisione assolutamente più ampia, comprensiva, narrante e dialogante. Questo elemento del dialogo è assolutamente centrale in un'epoca come l'attuale, in cui il monologo statale tecnologico pretende di occupare la totalità dello spazio del discorso e ricostituire le condizioni del dialogo effettivo, del dialogo impegnativo, del dialogo da cui derivano delle conseguenze pratiche nelle vite tra gli umani e le altre specie viventi è un passaggio senza il quale si resta nel pantano attuale. La cosa che vi chiedo è se questa, però questa, io ho parlato di una nuova internazionale di Ogome Gemeinwesen con questa prospettiva assolutamente più ampia e eccessiva rispetto ai termini tradizionali della politica e anche di grossa parte dei tentativi emancipativi del passato, è compresa nella prospettiva da cui partono gli autori su cui avete lavorato finora, oppure può essere quel contributo che i nostri giri, con tutti i limiti che hanno avuto, che però partono da una serie di esperienze di rottura, possono dare? E pongo questa domanda perché un'amica che conoscete anche voi, Giuliana, molto interessata a queste tematiche, a questo libro, mi ha segnalato il fatto che qualche tempo addietro, di recente, in triennale, si è parlato di questo libro, era presente il prefatore, e però se ne è parlato sostanzialmente con un endorsement con Stefano Boeri. Cioè c'è la possibilità, ahimè, di una declinazione debole e sostanzialmente collusa con l'esistente anche di questi temi, perché le possibilità del recupero, quantomeno del recupero a chiacchiere, perché poi sul piano delle scelte più impegnative ovviamente non si fa nulla, però sul piano del discorso e di un uso puramente discorsivo, ma non nella dimensione di comunicazione effettiva che si intendeva prima, ecco, c'è la possibilità di spendere e consumare anche questi contributi dai livelli più alti fino alle pubblicità che passano in televisione. Ecco, come quindi posizionarsi e usare in maniera impegnativa, forte e davvero emancipativa queste nuove aperture della visione che ci vengono sollecitate dagli autori su cui state lavorando. Perché è vero che la dimensione della politica non esaurisce, non può esaurire la prospettiva emancipativa dell'umano e men che meno una prospettiva che comprenda l'insieme del vivente, però la questione della rottura, perché poi siamo ancora lì, invece continua ad avere una sua valenza pratica. Come articolare questi pezzi che al momento sono ancora un po' irrelati di una nuova prospettiva? Innanzitutto grazie per la domanda, sempre facile e accomodante, come sin dal 2001. Però è giusto perché subito dritto al punto. Allora, no, guarda. Poi, vai. No, vai, se vuoi dire qualcosa vai. No. Lui fa sempre la domanda leninista, è giusto? No, certo. Ma noi stiamo scrivendo un libro su questo, Robertino. No, guarda. Guarda, allora ti faccio un esempio un po' banale. Venendo qui in metro c'era una pubblicità, visto che hai citato la pubblicità, di questa, correggetemi se sbaglio. Riforestiamo? No, era su Too Good To Go, questa nuova, credo sia una app, una cosa. Appunto, Tucuduco, se ho capito bene, è una roba che tipo buono. Cibo ancora buono, della gente passa, anziché buttarlo, lo prendi gratuitamente, lo distribuisci. Ah, lo paghi pure, vabbè, comunque. Lo paghi, vabbè. Io pensavo che era gratis, già mi ero lanciato. Comunque, va bene, a parte questo, sotto lo slogan era scritto salva il mondo, o salviamo il mondo. Credo che uno dei problemi principali di tutto, di buona parte del, l'ho provato a accennare un po' nel mio intervento, non so se si è capito bene, di tutta buona parte del pensiero ecologico, dell'attivismo ecologico, che ovviamente qua bisogna fare attenzione, non è che va buttato tutto al ogni cosa, no? Come noi siamo abituati poi spesso a fare, però che poi riguarda anche il problema proprio dell'antropocene, continua comunque a pensare e ripeto, cioè, libri del genere fanno emergere in maniera forte proprio questa cosa qui, continua a pensare l'umano, cioè tutto ciò che è umano, cioè noi, e quindi anche la politica, la nostra vita in comune, come proprio qualcosa di separato. L'antropocene è proprio, anche il nome viene da antropos, no? Sancisce, diciamo, il fatto che l'umano è addirittura, no, da forza storica, no, sul pianeta, diventa addirittura una forza geologica, no? Quindi è in grado addirittura di cambiare no, l'andamento proprio naturale, chiamiamolo così, del pianeta. Noi pensiamo che, diciamo, questo approccio qui, e ovviamente cioè, testi del genere sono effettivamente molto... sono d'accordo con te, sono molto spendibili anche da questo punto di vista. Spesso quando noi ci ritroviamo anche a parlare di queste cose, la reazione, cioè diciamo il primo livello di comprensione di tutto questo discorso è che appunto bisogna ristabilire un rapporto con la natura, bisogna, e soprattutto questo concetto, bisogna salvare il mondo, bisogna salvare la natura, come se Avendo capito perfettamente che abbiamo distrutto noi il pianeta, adesso, non contenti, lo vogliamo anche salvare, no? Crediamo che questo approccio sia, a parte sia totalmente legato proprio al problema della tecnica, che è un problema enorme, però quello che diciamo sempre, cioè non dice niente sul presente, non ci dice niente su quello che effettivamente possiamo o non possiamo fare in questo momento, no? Chiaramente l'epoca attuale è caratterizzata proprio da un rinnovato attivismo appunto ecologico, una raccolta differenziata, andiamo nei bar, non ci danno più le cannucce per bere le cose, ma delle cose di legno, tutta una serie di piccoli gesti. Però quello che ci dicono gli esperti, cioè gli scienziati su questo, è che ogni nostro piccolo gesto fondamentalmente serve a molto poco rispetto a quello che sta avvenendo in questo momento sul pianeta. E quindi noi la nostra domanda è tipo, e quindi cioè, da dove partiamo, come ci rapportiamo a quello che di fatto stiamo affrontando? Noi infatti, anziché parlare di fine del mondo, preferiamo parlare sempre di mondo diminuito, che è un'altra, diciamo, felice intuizione di Edoardo Viveros de Castro, che appunto dice questa cosa, che è molto semplice però è molto importante, cioè noi dobbiamo capire che dovremo essere in grado di ritrattare, di rinegoziare tutta una serie di abitudini che abbiamo sul pianeta. Ultima cosa, cosa di cui si parla tanto anche adesso, la green economy, il capitalismo verde, soprattutto la transizione energetica, che adesso insomma hanno creato un ministero, no? Quindi diciamo è un progetto già abbastanza avanzato, già in corso, non mette mai in discussione le abitudini o come direbbe con gli abiti che noi abbiamo nel rapportarci a tutto quello che facciamo. Se noi non, e per questo è importante quello che prova a dire questa cosa che noi abbiamo incluso nel problema della relazione, cioè se noi non cominciamo a rinegoziare, a ritrattare questa questione qui, faremo difficoltà. Il pensiero indigeno che viene dall'Amazzonia è fondamentale per noi, perché è un pensiero che non si sognerebbe mai di avere un tipo di rapporto con, per esempio col mondo che loro vivono, di questo tipo, cioè un nativo non si sognerebbe mai di dover salvare o proteggere, no, la natura o la foresta. Cioè, diciamo che sia se vuoi distruggere il pianeta, sia se lo vuoi salvare, no? Lo ti tiri fuori comunque. Quindi dobbiamo trovare una modalità del pensiero che non si tira fuori. Non so se poi. Ma, sì. Aggiungerei che forse dal nostro punto di vista, per essere un po' più forse precisi, ci sembra che comunque il discorso ecologico o anche di altri atteggiamenti, se uno non si riconosce in questo grande gruppo, è come se esercitasse una sorta di privilegio, no? Che è il privilegio della critica. Cioè, la critica insiste, diciamo, nello stesso ordine discorsivo di ciò che è critica. Ci sembra che molti, noi compresi, abbiamo esercitato questa sorta di diritto sancito dalla nostra gnosologia, che però ci permette fondamentalmente di dire quasi tutto quello che vogliamo senza poi doverne assumere le conseguenze. E fra un po', penso che saremo costretti ad assumere le conseguenze. Proprio per legarci all'idea di mondo diminuito che metteva in campo Alessandro, e senza però essere né catastrofisti o survivalisti, cioè fra un po' dovremmo fare i conti con un mondo radicalmente diminuito, in cui comunque le nostre abitudini ci porteranno direttamente, penso, a Camposanto. Cioè, nel senso, c'è ancora uno spazio che deve essere ancora tutto da esplorare. Cioè, le forme di vita sono, vi è una complessità nelle forme di vita che non è esauribile all'interno di questo paradigma. Quindi sì, da un punto di vista tutto questo discorso può essere recuperato, ma penso che alla fine, cioè, tanto il muro lo prendiamo tutti. Quindi da un certo punto il titolo del libro che vorremmo scrivere, che è ancora un titolo provvisorio, è Credere al mondo. Ci sembra che il nemico, ovvero lo Stato, il capitalismo, scegliete il nome che più vi piace, comunque creda al mondo, cioè abbia un'idea chiara di mondo. Cioè lo vede come un oggetto da sfruttare, un'occasione per fare soldi, un'occasione per fare business, ed è pronto a difendere e a lottare quest'idea, questa credenza. Noi abbiamo una credenza di mondo? Cioè, noi come compagni, come compagne, abbiamo un'idea di mondo da difendere? Cioè, una cosa che abbiamo imparato, per esempio, da Davide Copenaua, che la foresta è un bel posto, mentre invece sentiamo sempre compagni e compagne descrivere il mondo in cui vivono come comunque una merda. Come si fa a lottare e a difendere qualcosa che in fondo consideriamo una merda? E quindi forse noi ci stiamo ancora lavorando su questa cosa, quindi fondamentalmente balbettiamo, sono delle sperimentazioni, sono delle suggestioni, però pensiamo che sia questo un po' la direzione in cui andare. Ecco perché poi abbiamo scelto, perché poi sono pure escamotage che funzionano magari all'interno di un libro, all'interno di una presentazione un po' meno, no? Però crediamo che la politica, cioè che dobbiamo sbarazzarci della politica. La politica è troppo legata, no? Nasce dal governo e dalla gestione di un territorio delimitato, la polis, quindi qualcosa che comunque attraverso la chiusura delle mura mette fuori tutto il resto. Invece adesso che abbiamo bisogno di mettere dentro tutto il resto, di stare nel mondo, ci sembra che la politica non abbia più senso e che bisogna invece riguadagnare uno spazio che è appunto quello della cosmopolitica. Come riempire questo spazio? Attraverso l'etica, attraverso le relazioni e attraverso un nuovo modo di conoscere il mondo. Ripeto quello che ho detto prima, l'ontologia runa non è solo un'altra ontologia, per alcuni versi è una descrizione molto più dettagliata del mondo, che permette ai runa di relazionarsi a un mondo ipercomplesso come quello della foresta. Nel libro ci sono numerosi esempi di situazioni in cui i runa riescono a destreggiarsi, mentre invece noi bianchi occidentali faremmo faticosamente acqua, cioè faremo un buco nell'acqua. La stessa gnosologia, lo stesso modo di conoscere il mondo occidentale, se poi lo andiamo a vedere fino in fondo, è costruito sul sistema della certezza, ma quando andiamo dal medico ci dice fai questa cosa e vediamo che succede. Cioè non è che c'è come se ci fosse, no, un'idea di certezza messa un carro davanti ai buoi, però poi fondamentalmente andiamo pure noi a tentoni. Come vanno i runa da questo punto di vista? Quindi, come dicevo prima, se la nostra priorità in questo momento è andare su Marte, allora la nostra gnosologia è perfetta. Non c'è niente da cambiare. Finisco finisco. Se invece la nostra, cioè il nostro obiettivo è quello di guadagnare un rapporto compositivo con la Terra, un rapporto di composizione che ci permette, che ci permetterà di affrontare l'antropocene, cioè di affrontare la cosiddetta fine del mondo, allora forse quest'altro modo di conoscere il mondo è molto più interessante, molto più da esplorare e da indagare. Buonasera a tutti. No, velocemente alcune questioni. Posto che la politica resta questione ineludibile dell'umano, perché su quello scenario comunque battiamo i nostri conflitti, problemi, diritti, e non è estendibile al vivente, perché saremo noi a, come dire, collocare il vivente in una sfera che noi ipercostruiamo e precostituiamo. E sono d'accordo con voi, la questione della relazione è una questione fondamentale ma lungamente esplorata dal movimento femminista. Donna Haraway, che avete citato prima, ha lungamente lavorato su questo. Credo che Ilia Prigozhin e Isabelle Stenger abbiano lungamente prodotto questa concatenazione che un versante dell'ecologia politica e etico-politica a posto, perché non c'è uno scenario unico dell'ecologia, ci sono delle varianti. L'ambientalismo è una variante bassa, a mio avviso, del discorso ecologico, che ha dentro una scommessa di un progetto etico-politico. Non possiamo uscirne da questo, no? In questi giorni, in questi momenti, in queste ore, abbiamo di fronte scenari complessi che dipendono però da società umane che hanno un quid specifico che non si può eludere, che è il quid tecnico. Poi possiamo anche estendere il discorso della tecnica alle formiche, alle api, ma il quid tecno-tecnologico dell'umano è quello che ci pone di fronte al problema che abbiamo oggi, del limite, delle pandemie, che proprio Stenger, mi spiace, aveva ben ravvisato molti anni fa. Quindi io, come dire, non c'è in natura la logica ricompositiva. La natura non è ricompositiva, la natura è conflitto. È un conflitto permanente che permette al vivente di produrre appunto le forme di vita nella loro capacità di appunto produrre alleanze, conflittualità e trasformazioni. È molto più complesso. Poi mi spiace che sia stato evocato una persona come Sini, che è una di Hegeriano, quindi frutto di un pensiero, come dire, quantomeno distante, perché è un pensiero che sappiamo essere connesso a una lettura, per esempio, dell'ecologia vivamente connessa. Uno, col pensiero debole in Italia, due, con un pensiero nazista da quanto proviene dalla Germania. Grazie. La foto di Heidegger per caso. Scusami, al di là della battuta, scusami, ti chiedo scusa. E no, sì, assolutamente intervento ultra pertinente, hai assolutamente ragione. In realtà poi durante una presentazione, no, uno un po' tende a tagliare con l'accetta per mettere dei concetti un po' chiari, però sappiamo benissimo, insomma, che il panorama dell'ecologismo o di chi si occupa di questo, no, di questo argomento è molto ampio, e appunto, cioè, usavamo Sini solo perché ha avuto delle analisi interessanti su un concetto che noi comunque prendiamo da Stanger, che comunque è la cosmopolitica. Ovviamente non escludiamo la politica dal panorama, ma cerchiamo di rinquadrarla in una nuova cornice. Oddio, volevo dire una cosa. Sì, riguardo la tecnica, è vero, c'è una tecnica che è diventata tra virgolette internazionale, nel senso che è su tutto ha riempito tutto il globo. Però l'idea di tecnica E questa tecnologia che ha ricoperto l'intero globo, quella legata comunque al capitalismo, è legata comunque alla Grecia, è legata alla cultura occidentale. Però non esiste, questa non è l'unica visione tecnica che è stata sviluppata dall'essere umano. Per esempio, c'è, adesso è uscito un bellissimo libro per Nero, mi pare si chiama Cosmotecniche, di questo Yu Kui, che è uno studioso cinese, che appunto spiega come mai in Cina la tecnologia non si sia sviluppata fino al Novecento, perché c'era un'idea di tecnica che era totalmente diversa dalla tecnica occidentale. Era una tecnica che si basa su un rapporto stretto di interrelazione tra il Qi e il Dao è il cielo, il Qi è l'essere umano, lo strumento, e ogni volta che deve usare lo strumento deve trovare un rapporto di armonia, quindi un rapporto etico con il cielo. E questa cosa, per esempio, ha fatto sì che in Cina la Cina abbia resistito culturalmente allo sviluppo della tecnologia, nonostante sappiamo tutti che nel corso dei secoli abbia avuto degli avanzamenti tecnici che superavano di gran lunga l'Occidente, no? L'invenzione della polvere da sparo, degli spaghetti e tutto quello che sappiamo. No, perché altrimenti chi ascolta la discussione da remoto non perde un pezzo. Allora, quest'anno io mi sono trovata a leggere un testo di Consigliere sul reincanto, Il Dio della danza, Il Dio che danza di Pecere. Il testo di Quodlibet sulle sostanze psicotrope, in sostanza. Mi è sembrato molto interessante trovare nello stesso anno tre cose differenti, ma che mi hanno riportato allo stesso tipo di pensiero. Continuo a seguire, tra l'altro, Consigliere anche sul blog di Wuming, e lì vedo che comunque esiste, leggendo questo blog, una resistenza che io personalmente non sento. Cioè, a me piace questa idea di una cosmopolitica, però percepisco una resistenza che però non è del tutto peregrina da parte di un marxismo più, non dico ortodosso, non saprei come dire, che guarda con una certa diffidenza queste espressioni che a me hanno incuriosito, perché tre in Italia in un anno, ho detto ma a che storia? Posso far fare due passi indietro? Sei vicino alle casse? Sì, aiuto, va bene. Diciamo che in un ambito politico io ho visto una grossa diffidenza e ho sentito, che so, mi riferisco che so, ad alcuni dibattiti proprio su JAP, offendere secondo me la consigliere, e insomma ti ritorna l'immagine di recuperare la New Age, no? Allora, come riuscire a specificare, a far comprendere come si può aprire questa cosmopolitica? E soprattutto un altro tema, tu dicevi le foreste stanno bene, le città strista di merda, ma noi stiamo nelle città. E quindi questa cosmopolitica nelle città, come dire, con una tecnica che ci precede, ci convive, ci innesta, come la faccio, come la viviamo? Non possiamo tornare nelle terre di mezzo. Cioè, allora, questo secondo me è poi il centro. Come facciamo la cosmopolitica qua? Perché bellissimi questi racconti di viaggio che ho letto nel Dio che danza, i racconti di Stefania, nelle fiavole del reincanto. Però, come dire, a me portano lì, però poi apro la finestra e sto su Corso Lodi. Ma, allora, guarda, a parte con Stefania abbiamo fatto una presentazione a Roma la settimana scorsa. E quindi c'era questo tema comune, no, del reincanto del mondo, perché pure un'altra tesi del libro di Kohn è che appunto il mondo è incantato, no, il mondo è incantato perché è fatto di sé, no, di sé pensanti che hanno una rappresentazione del mondo. E in realtà io non ho ovviamente una risposta a questa domanda, che è la domanda. Però posso risponderti con un esempio. Io adesso ho due figli piccoli, La più grande, che ha 3 anni, ha avuto un momento in cui faceva questo gioco, prendeva dei legnetti e li metteva insieme e diceva sto facendo la brace. Allora ovviamente dopo un po' che questo gioco è andato avanti, io ho detto guarda, se domani è bel tempo andiamo in montagna, ti faccio conoscere la montagna e facciamo la brace vera. Lei ha alzato lo sguardo e mi ha detto papà, ma questa è già brace vera. Quindi da un punto di vista del mio mondo non riusciva a tenere il suo, mentre lei invece riusciva probabilmente a tenere tutti e due, no? Perché il classico gioco dei bambini, per esempio, quando fanno le poltiglie e dicono che questo è cibo, no? Però poi non se lo mangiano. Cioè, quindi sono in grado di avere un mondo incantato e un mondo, tra virgolette, non incantato, di tenerli insieme tutti e due. Questa forse è un po' la strada in cui dobbiamo andare, no? Trovare una sorta di rincanto del mondo. Per esempio c'è, visto che è stata citata anche nell'intervento precedente, no? Questo si fa anche attraverso una sorta di realismo. Per esempio nel libro di Donna Haraway, l'ultimo, Ctulucene, per esempio c'è un passaggio sui piccioni in cui viene creata questa struttura in cui per esempio i piccioni sono un problema per quell'area geografica, viene creata una struttura in cui i piccioni possono andare a nidificare, però l'essere umano può sottrarre le uova e quindi tenere, diciamo, sotto controllo quella popolazione, perché poi i piccioni, adesso non ricordo esattamente che danno provocava una sovrappopolazione di piccioni, quindi toccherà anche saper selezionare, no? Ciò che può essere salvato, ciò che invece non può essere salvato. E un po' come suggestioni mi vengono in mente queste due, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa. La questione il nome così, non Silvia, che poneva Silvia, cioè, secondo me ovviamente è centrale. Chiaramente cioè, di fronte a problematiche del genere, appunto, chiaramente questa è una cosa importante che noi proviamo a dire sempre. Noi quando abbiamo incontrato il pensiero indigeno, e incontrare il pensiero indigeno non vuol dire studiare etnograficamente cosa succede, come poi insomma fa principalmente l'antropologia o l'etnografia, ma studiare il pensiero indigeno, cioè proprio in maniera, cioè come si studia la filosofia occidentale o come si studia la politica occidentale, cioè come siamo abituati a studiare nelle nostre università. Quindi avere un confronto, diciamo così, orizzontale con quella che è una filosofia, un'estetica, una politica molto complessa, che è stata sminuita dagli studi, spesso dagli studi antropologici, e ci ha aperto, e noi abbiamo incontrato questo pensiero proprio perché eravamo in un certo senso chiusi dentro un impasse, cioè l'impasse, appunto, per tornare a quello che dicevamo prima, della nostra politica. È chiaro che dire questo non vuol dire assolutamente rinunciare, cioè siamo perfettamente consapevoli che questo tempo ci sta portando, ma lo vediamo comunque a delle conflittualità molto forti, che il fatto che comunque non so come dire, cioè non è che buttiamo tutto al cesso perché appunto adesso c'è la cosmopolitica e quindi la politica la mettiamo da parte, semplicemente ci sembra che l'approccio che soprattutto l'approccio critico, cioè quindi diciamo così l'approccio anticapitalista, effettivamente abbia sempre meno da dire rispetto ai problemi contemporanei, cioè rispetto ai problemi che pone l'antropocene. La questione tipo come facciamo noi nelle nostre città non è una questione teorica e non è una questione a cui noi, diciamo, per volontà andiamo incontro, cioè adesso iniziamo a pensare cosa fare domani ci sono le crisi climatiche. È una questione che ci sbatte addosso, ci sbatte in faccia. Quello che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni è un esempio, secondo me, anche blando, perché diciamo non voglio essere pessimista, ma ne affronteremo di problemi del genere, blando di quello che noi dovremmo trovarci ad affrontare. A un certo punto noi ci siamo trovati a vivere un mondo completamente diverso, ma dalla sera alla mattina dopo. E di fatto avevamo veramente ben poco da dire, ben poco da fare, o comunque molto poco da... non sapevamo che fare. E di fatto chi più chi meno, chi in un modo chi nell'altro, abbiamo seguito le regole, no? Che erano imposte dallo Stato, dalla scienza, non so, chiamatela come preferite. Per cui, cioè, ripeto, non è una, cioè, noi dobbiamo, il problema della politica, un altro problema grosso è che è spesso inserito dentro la questione delle scelte, cioè delle nostre scelte, mentre adesso noi ci troviamo di fronte uno scenario in cui la questione non è scegliere, non è più dove noi vogliamo andare, ma ci ritroveremo di fronte dei problemi in cui dovremmo agire in maniera anche abbastanza immediata su delle cose. Per questo tutte le critiche poi a quelle che riportavi un po' tu, no? Appunto, cioè, secondo me, non lo so, fanno molta fatica perché comunque non riescono a uscire da questo paradigma che appunto, che in maniera un po' ovviamente grossolana noi abbiamo provato a dire politico, ma in quel senso là, appunto, no? La parola politica viene da, cioè, ha una radice specifica, viene da polis, è l'arte di organizzare un territorio ben delimitato. Finché noi non usciamo da questo recinto, credo avremo ben poco da dire sulle problematiche che dobbiamo affrontare e che stiamo già affrontando. Quindi chiaramente non ci sono risposte immediate a questo, ma è necessaria un'apertura, che è un'apertura pratica e anche intellettuale, che forse ci può consentire di cominciare a vedere le cose, no, con sguardi anche un po' diversi. Per esempio il pensiero sciamanico è impressionante da questo punto di vista, perché lo sciamano, che è tante cose, è anche un curatore, è un traduttore, perché traduce i mondi, lo sciamano proprio è un narratore, abita proprio questo spazio mediano in cui si riesce veramente a tener conto di diversi punti di vista. Credo che noi con le nostre abitudini facciamo fatica. La critica più forte che ci sembra di dover portare a, appunto, l'attitudine militante, perdonate le parolacce, è proprio questa, quella che diceva lui, questo privilegio della critica in cui noi siamo rinchiusi. Ok? C'è un racconto bellissimo di Kafka, si chiama La Tana, che praticamente è un animale di cui non si sa bene che animale è, che costruisce un rifugio così perfetto da non riuscire a uscirne. Ok? Mi sembra che è un'immagine molto forte. È molto, tra l'altro, Heidegger, che era stato citato, dice una volta in un'intervista, mi sembra, dice: ho letto quel racconto, ho smesso di leggere Kafka perché sono andato in paranoia totale, ho avuto l'ansia per non so quanti mesi. Questo privilegio della critica è questo, cioè il militante non deve volere le conseguenze pratiche dei propri enunciati dentro questo paradigma qua politico. Cioè noi possiamo dire anche le cose più radicali, anche le cose più distruttive, però poi le conseguenze reali di quegli enunciati che portiamo orgogliosamente avanti, volere le conseguenze di quegli enunciati, non so quanto riusciremo a sopportarli con le nostre abitudini. Quindi l'idea è: partiamo da, no? Da un po' da dietro. Questo è un po' la, non so se è chiaro. Guarda, io vorrei aggiungere una cosa, se riesco. Allora, volevo leggervi questa suggestione che viene da Italo Calvino. Calvino nel 72 scrive Le città invisibili, libro bellissimo. E vi leggo questo passaggio che un po' forse può indicare la via. Cicciolone. Stampato grande, ma non ci vedo uguale. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e farne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare, saper riconoscere che cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Ecco, questo potrebbe essere un passaggio che un po' ci indica perlomeno un inizio possibile, ecco. Io vorrei dire ancora due cose brevi, sempre a proposito di quell'intreccio possibile tra queste nuove visioni, queste nuove prospettive, delle quali metterei innanzitutto in risalto la valenza pratica, esistenziale, addirittura individuale rispetto al saper vivere, al potere vivere praticamente, perché noi tutti siamo consegnati oramai a una sostanziale impotenza rispetto a qualsiasi accadimento minimamente difforme dall'ordinario. Se si rompe qualcosa non sappiamo come fare sostanzialmente. E il sistema delle protesi ci ha resi così dipendenti dall'artefatto esterno che c'è solo da sperare che non succeda niente. Invece dicevate che quello che un tempo era considerato animismo come immagine ingenua del rapporto con la natura, in realtà è un insieme di saper fare, di conoscenze concrete, della diversità dell'ambiente in cui vive. Ecco, questa è una cosa che ha immediatamente una valenza anche pratica, oltre che essere qualche cosa che è estremamente importante per dislocare il nostro sistema di pensiero e il sistema di rappresentazioni sulla base del quale noi viviamo sostanzialmente, perché noi conteniamo le immagini e le idee della politica, dell'economia, di una certa presenza sul territorio, nelle relazioni e quant'altro. Ecco, però per tornare invece a che cosa può essere utile per dialogare positivamente con queste altre visioni, beh, chiaro, il termine politica è uno di quei termini così grossi, impegnativi e polisemici che sono difficili da abbandonare in toto. Però ricorderei che la prospettiva da cui molti di noi muovono non è innanzitutto mai stata una prospettiva politica, perché il concetto cardine per molti di noi era quello dell'autopraxis, non di una politica declinata diversamente. Diciamo, nella crisi dell'ancien regime, nella costruzione di quella che poi diventerà la macchina politica contemporanea e che adesso consuma la sua agonia, e si è affermata con forza, poi è stata superata da altre tensioni che erano delle stupidaggini, però questa idea di autopraxis è già uno spostamento forte rispetto al pensiero e alla tradizione del pensiero politico occidentale. Così come in anni più recenti, dopo il 68, una tensione alla critica della politica è stata anch'essa estremamente forte, perché, ripeto, l'agonia della politica che porta sulla scena una volta il buffone, l'altra volta lo sportivo, l'altra volta il tecnocrate, è stata anticipata positivamente come critica e rifiuto della politica nei momenti forti della tensione rivoluzionaria. Ecco, dovremmo riuscire a coniugare e spostarci e far dialogare queste prospettive anche che muovono dalla nostra storia, secondo me, così come nella nostra storia c'è stato chi ha avuto già tanto tempo addietro uno sguardo sufficientemente ampio sia sulla pluralità del fare umano a scala planetaria, sia su quello che ultimamente è stato definito il reincanto, no? La necessità di un reincanto, e non soltanto in quello che è il filum del movimento proletario, ma in tante espressioni della poesia o di quei saperi pratici precedenti che costituiscono un po' l'altra scena dell'Occidente. Ecco, nel vostro lavoro, che spero prosegua, questa dimensione, secondo me deve essere bella marcata. Poi come e quando, ecco, io ho insistito prima sulla rottura, perché da lì non si scampa, però non si tratta solo di questo, è proprio un posizionarsi diversamente, non soltanto guardando all'infinità dei mondi possibili e dei modi di vita che hanno permesso all'umanità di arrivare fino ad oggi, ma anche proprio all'interno delle vicende che sono le nostre, che perlomeno che io considero ancora costitutive della mia presenza al mondo. Assolutamente sì, d'accordissimo. E per esempio, guarda, faccio un esempio che facciamo spesso rispetto a tutta questa tradizione che hai messo in campo. Per esempio, una cosa che di cui ci piace spesso parlare sono i luddisti, no? Luddisti anche nella storiografia, anche politica, vengono considerati come quel, tra l'altro luddista è diventato un aggettivo che vuol dire uno contro le macchine, praticamente uno un po' primitivista, così. In realtà i luddisti, cioè, se studiato bene quel movimento, cioè, avevano una precisione nei loro attacchi, cioè, i luddisti avevano una percezione così particolareggiata del mondo in cui vivevano, no? Che avevano capito perfettamente che alcuni telai che venivano in quel momento portati avrebbero cambiato definitivamente, cioè gli avrebbero proprio sottratto il mondo che loro abitavano, che loro vivevano e al quale tenevano, attenzione, cioè al quale volevano bene in qualche modo. E infatti i luddisti non è che andavano, entravano nei posti e spaccavano tutto, ok? Andavano e sapevano esattamente quali erano i macchinari che avrebbero potuto, appunto, che poi così è andata, devastare o comunque mettere fine totalmente al loro mondo, no? Cioè un esempio che fa parte della nostra tradizione politica. Ecco, credo che, per esempio, per tornare anche alla questione di prima, credo che noi questa precisione un po' l'abbiamo un po' persa, e ci ragioniamo poco, l'abbiamo un po' abbandonata, è un po' troppo generalisti sulle nostre critiche. E ripeto ancora, cioè volere le conseguenze pratiche degli enunciati che portiamo avanti dovrà iniziare a essere una sfida cioè concreta, ma molto materiale, con cui confrontarci. Altrimenti continuiamo, il rischio è di continuare a girare a vuoto nell'inesauribile esercizio del commento di quello che non ci va bene, di quello che ci fa schifo, e intanto le cose continuano a procedere nella loro direzione. Quello che diceva Ale prima è centrale: il nemico, chiamiamolo così, si organizza intorno ai propri enunciati, ma vuole le conseguenze di quegli enunciati. Cioè, il capitalismo verde, tutto quello che noi critichiamo, ha una teoria e si sta organizzando con delle strutture, ministeri, persone, crea nuovi posti di lavoro, crede in quello che fa, ci crede fortemente e ha i mezzi per portarlo avanti. Finché noi non riusciamo a costruire una potenza più o meno spirituale e materiale di quel tipo, rimaniamo incastonati in questo esercizio critico, che può andare bene da un punto di vista, diciamo così, letterario, ma rimane questo. Questo o il nostro? Dai, scherzo, questo credo di sì, ce l'hai, Robby? Ancora no. Però si può acquistare in qualsiasi libreria. Non qua. Non ce l'ha Robertino non adesso. Sono stato un po'... pensavo che lo portasse l'editore. Non ce l'hai 4-5 nella borsa. Però sì, non ti diciamo di comprarlo su Amazon, ovviamente. No, è che questo incontro è stato organizzato in battuta, ma proprio da pochissimi giorni. Settimana prossima sarà disponibile. Se non ci sono altre considerazioni, domande o interventi, potremmo chiudere e rimandare al quarto appuntamento. Con il loro libro, sì. Ok, promesso. Dai, grazie a tutti. Grazie a voi. Alla prossima. Grazie di essere venuti, grazie.